Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in scena. Sono un gruppo della provincia di Lecce. La nascita risale al 1996, ma assumono una fisionomia definitiva nel 99. L'album di debutto che porta il loro nome è del 2002. Il brano Paris diventa subito una hit, viene scelto per uno spot televisivo e come sigla di apertura del programma Le Iene. Nel 2004 l'album Un numero, nel 2006 Luna Park, nel 2010 Mamma l'Italiani. Nel frattempo collaborano anche con Sud Sound System, Caparezza, Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Nel 2014, dopo 4 anni, esce l'ultimo album, Riuscire a volare. Loro sono gli Apre la classe. È indispensabile fermarsi dopo un tour e prendersi proprio un periodo di staccamento totale tra di noi e anche a livello di tour, composizione, eccetera, eccetera. Quindi ognuno deve ritornare a fare la propria vita per un lasso di tempo che non deve essere chiaramente lunghissimo, ma quei mesi sono sacrosanti. Quindi il fatto di non sentirci tanto e di tornare a fare la nostra vita lontano dal tour, lontano dagli studi di registrazione, ci aiuta a riavere voglia di nuovo di rientrare in studio, a registrare, a scrivere. Quindi sicuramente è importante questo, prendere ossigeno. Grazie a Dio siamo in una posizione geografica che ci consente di trovare tanti stimoli positivi su questo punto di vista, e poi abbiamo sempre voglia comunque di ripartire in tour o comunque di rientrare in uno studio. Citato la posizione geografica, quindi non posso non chiedervi, anche se poi alla fine la domanda torna sempre, il Salento, perché quando avete iniziato qualche annetto fa il Salento era una zona ricca di fermenti, adesso ormai il Salento è un'istituzione in Italia e ne parliamo sotto la pioggia battente milanese, ma insomma è una terra in cui un tempo c'era il sole, il mare, il vento, adesso il sole, il mare, il vento e la musica. Fate parte delle istituzioni di questa terra che ormai è un punto di riferimento per la musica italiana. Sì, ci sono tantissime realtà che ormai hanno fatto più di 10 anni di attività di storia, ne stanno uscendo delle altre, andrà avanti sicuramente così. Il Salento è un posto stupendo dove stanno succedendo tantissime cose belle, purtroppo anche delle cose brutte. Ci sono degli eventi dei quali probabilmente nessuno vuol parlare, però purtroppo chi ama la propria terra deve anche parlare di qualcosa che non va. C'è l'ILVA, ci sono dei tumori nella terra che comunque sono attualità e verità, bisogna dire anche questo. Oltre a tante cose belle è una terra che soffre, purtroppo ci sono delle problematiche che noi per esempio abbiamo riportato assieme a tantissimi altri colleghi facendo il 1° maggio di Taranto. Perso nel tempo, anche in Riuscire a volare avete scritto molti testi che parlano della realtà, anche di temi difficili. All'interno di questo disco più che negli altri ha rapportato l'esperienza della quotidianità, della nostra quotidianità di ogni giorno. La cosa bella è che all'interno delle 12 canzoni che poi compongono l'album sono lo specchio di quello che viviamo ogni giorno. da Angeli, per intenderci, che è un pezzo dedicato all'esperienza che abbiamo avuto, duplice esperienza, a Auschwitz-Birkenau, dove un conto è leggere, guardare in TV determinate cose, un conto è calcare con i piedi quegli ambienti che hanno cambiato tutti noi per tutta la vita. Si avverte l'energia, qualche cosa che è difficile da spiegare in maniera semplice, abbiamo provato a farlo in musica e secondo me è venuto fuori un bellissimo esperimento. E così anche negli altri, ad esempio c'è la faida, che è un altro argomento che abbiamo toccato, sulla triste realtà, la triste vita che a volte dei ragazzi sono costretti a subire nascendo in determinati ambienti, e come c'è anche Via, che è l'altro pezzo un po' più impegnato, che contro ovviamente la pedofilia, comunque le violenze sui minori che sono dietro a ogni muro in ogni angolo di questa nazione, non so. E ancora un nuovo giorno si sacrifica, ho solo il vuoto e smarrito la lucidità. Un tramonto irraggiungibile, la dignità. Ciò che mi resta è una manciata d'ore. Stringo tra i denti la fame e le paure. Si piange sangue tra i muri di quartiere. Non puoi sognare se hai nulla in cui sperare. E alla fine forse è meglio morire. E ancora scoppiano violenze nella faida, lotte private tra famiglie. Anche gente da chilometri, da date, da estati piene. Quest'estate come sarà? Ho letto anche che aprirete i Negramaro a Lecce, e loro hanno definito lo stadio di Lecce il loro Wembley, quindi anche per voi immagino che sia uno stadio significativo. Sì, noi da tifosi innanzitutto siamo fanatici del Lecce, quindi chiaramente suonare lì dentro ha una doppia emozione. Lo facciamo per amicizia, quindi condividiamo lo stesso palco e siamo contenti di farlo. Loro ce l'hanno chiesto, noi ci siamo subito catapultati, ci catapulteremo, anzi ancora è presto per dirlo. E quindi sarà una grande festa assolutamente, anche perché siamo tutti progetti, in quel giorno suoneremo in diversi progetti, tutti amici da tantissimi anni, da prima che avvenisse il loro boom e il nostro seguito, quindi sarà un concerto vero di amicizia, di condivisione. E le vostre date tante? Ringraziamo la Color Sound, che è la nostra agenzia, per tutto il tour che sta uscendo, che è già uscito un mese fa e continuerà per chissà quanti anni. Sì, le date le potrete consultare sul sito aprelaclasse.org, e sono tantissime in Italia, la spennelliamo da cima a fondo, grazie a Dio. Ho un'ultima domanda. Io quando ho visto il dirigibile ho detto, vabbè, sì, volete volare col dirigibile, però il dirigibile anche nella storia della musica è abbastanza... abbastanza impegnativo, fuori che anche le Zeppelin purtroppo l'hanno usato. Ma noi non ci arrabbiamo. L'altro giorno Robert Plant me l'ha chiesto piangendo in lacrime, ho detto guarda, tranquillo, lo potete utilizzare anche voi. No, comunque fuori dalla battuta, era perché anche il dirigibile rispecchia in pieno l'abbigliamento che abbiamo usato all'interno dell'album, che lo facciamo sul live, che è praticamente uno stile steampunk, che è una sorta di moda vittoriana, d'accordo, solamente che ha un contrasto di cyborg all'interno, perciò è un passo, uno sguardo al passato però con un passo verso il futuro. È il dirigibile perché nella modello steampunk loro sono per l'energia pulita e soprattutto per l'energia a vapore, ed ecco perché poi un po' le cose si erano combinate. Poi ci piaceva anche come citazione, perché all'interno dell'album esiste la musica elettronica, che comunque è molto patinata e molto elegante, però la cosa fantastica è che è un album in cotto di tendenza, perché è completamente suonato dall'inizio alla fine, perciò fa veramente da bello. Ora il tuo sguardo sta su, non chiedo niente di più. Ora che sei abbracciata un altro uomo che non vede l'ora di farti felice, sai, come non ho fatto mai per darti coraggio e farti riuscire a volare. salendo sempre più su, nuotando nel cielo blu, e dammi la forza tu per tornare e riuscire a volare. Ora il tuo sguardo sta su, non chiedo niente di più, ora che si è abbracciato un altro uomo che non vede l'ora di farti felice, sai, come non ho fatto mai per darti coraggio e farti riuscire a volare. Ora il tuo sguardo sta su, non chiedo niente di più. Uno che non frequentasse la musica direbbe: vabbè, ma è ovvio che gli album si suonano. Ormai potremmo aprire tre tipi di parentesi differenti su questo argomento. Voi appunto anche lo dimostrate con tutte le vostre date dal vivo. A voi piace ancora suonare come si faceva un tempo? Fortunatamente, infatti la cosa che ci ha felicitato ancora di più che quest'anno c'erano 22-23 date montate prima dell'uscita dell'album, ed è comunque una cosa positiva. I concerti sono partiti con la giusta piega, ci sono i ragazzi nuovi, i ragazzi della vecchia guardia, e la cosa bella è che anche nei ragazzi nuovi leggi l'emozione negli occhi e sulla pelle lo avverti. Una cosa fantastica che ci è successa è siamo stati male, che in due date ci siamo resi conto che suonavamo Riuscire a volare, che è il pezzo dell'album, e durante l'esecuzione c'erano delle ragazze che piangevano, nonostante fosse la prima volta che ascoltavano una canzone. E non ti dico che è stata cosa facile. E non siamo i Take That. Non siamo i Take That. Non quel tipo di pianto. Inteso che ci siamo emozionati anch'io e Puccio, non so, ci siamo accorti di questa cosa, ed era veramente un po' difficile riuscire a finire la canzone cantando e non facendosi travolgere da quello che comunque stavamo vedendo, sai? Noi siamo stati sempre all'insegna del pogo, del disastro, di magliette strappate, di vedere la gente che piange mentre canti. Ci ha fatto un nuovo effetto che dopo 18 anni, vedi, non smetti mai di scoprire cose nuove e di emozionarti davanti a cose nuove. Ed è tutto per questo Voci in Scena insieme agli Apre la Classe. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.